America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We are going to complete the program at the end of the second quarter, $600 billion. We are going to do that pretty much without tapering. Glasnost alla Fed e fine della politica monetaria facile. Ben Bernanke ha scritto ieri una doppia pagina di storia per la Banca Centrale Americana. È stato un grande interprete questo governatore che ha studiato a lungo la depressione della nuova trasparenza controllata. Ricordiamolo, c'è stata ieri la prima conferenza stampa di un governatore della Federal Reserve nella grande banca centrale americana. Vi dicevo che in qualche modo storicamente, quando si guarderà indietro, quando arriverà la stretta e si guarderà indietro, si guarderà alla giornata di ieri, perché Bernanke ha dato un paio di messaggi. Intanto basta con il QE2, Quantitative Easing 2, i 600 miliardi di dollari che aveva stanziato per sostenere il mercato obbligazionario americano. Scadrà a giugno e non sarà rinnovato. Nel tempo il portafoglio titoli che è stato accumulato diminuirà, e in qualche modo questo diventa il primo messaggio restrittivo dai tempi della crisi. Questo messaggio però arriva proprio quando, e questo lo sapremo letteralmente fra una mezz'ora, fra un tre quarti d'ora, quando, vi dicevo, si comincia a prendere atto che l'economia americana sta rallentando e resta debole. Alle 8:30 ore americane il Dipartimento al Commercio rilascerà i dati per la crescita del primo trimestre. Le aspettative non sono positive, ci si aspetta una crescita del 2,1%, quindi in rallentamento rispetto alle attese di una crescita del 2,8%. The second round of securities purchases was ineffective, could only be validated if one thought that This step was a panacea, that it was going to solve all the problems and return us to full employment overnight. We were very clear from the beginning that while we thought this was an important step and that it was at an important time when we were all worried about a double dip. Ecco, avete sentito Ben Bernanke che difende davanti alla domanda di un giornalista la manovra del QE2. La domanda diceva: ma insomma, in fondo questo QE2 non ha funzionato come doveva, questi 600 miliardi di dollari avrebbero dovuto essere di stimolo per l'economia, invece questo stimolo alla fine non c'è stato. E Bernanke ha detto, dice, chi pensava che questa manovra sarebbe stata una panacea e avrebbe risolto tutto all'improvviso con un colpo di spugna, si sbagliava. Del resto, dice, noi stessi lo abbiamo detto. Comunque, nel contesto di questa sua conferenza stampa, Bernanke ha dato un tracciato piuttosto chiaro, che segue una dinamica molto precisa. Intanto riassumiamo: a giugno si chiuderà la manovra accomodante da 600 miliardi di dollari. Questa manovra, vi dicevo, che serviva col quantitative easing a acquistare titoli americani. E questo non significa però che non si reinvestiranno i proventi delle scadenze per mantenere il portafoglio costante. Questo è un primo punto importante. Il portafoglio resterà costante. E c'è qualcuno che dice che già questa potrebbe essere una prima manovra in qualche modo restrittiva, perché nel momento in cui resta costante vuol dire che non si aggiunge liquidità e dunque si resta stabili. Altri sostengono che la politica in realtà sarà soltanto neutrale. Non solo si manterrà il livello del portafoglio utilizzando le scadenze sui titoli, che nel momento in cui scadranno saranno reinvestite. Saranno reinvestite però fino a un certo punto, e qui è stata la notizia che ci ha dato Bernanke in questa conferenza stampa. Cioè, ha lasciato intendere che nel momento in cui le condizioni economiche, che secondo lui torneranno a rafforzarsi nei prossimi trimestri, miglioreranno, allora la Fed potrà cominciare a non riacquistare più questi titoli e a lasciare che il mercato trovi un suo punto di equilibrio da solo. Ecco, a quel punto inizierà ovviamente un drenaggio di liquidità da parte della Fed, una liquidità naturalmente che aveva raggiunto livelli stratosferici e che dunque è bene drenare anche per frenare l'inflazione. Keeping inflation low and stable is absolutely essential to a successful economy, and we will do what's necessary to ensure that that happens. Punto secondo molto importante: rialzo dei tassi di interesse. Sarà un rialzo immediato? No. Allora, la dinamica secondo cui Bernanke procederà sarà questa: si comincerà, e ha dato un'indicazione precisa, entro due riunioni del prossimo comitato monetario, come quello di oggi, si riunisce ogni 6 settimane, quindi fra 12 settimane, quindi alla fine di agosto, potrebbe esserci un cambiamento, un avvertimento, una prima valutazione e cambiare il linguaggio nel comunicato. Mentre finora si è continuato a dire che i tassi resteranno, anche ieri voglio dire, bassi e ai livelli attuali, cioè fra lo 0 e lo 0,25%, quindi molto bassi per il futuro prevedibile, ecco, a quel punto si toglierà il futuro prevedibile, dunque un periodo di almeno 12 settimane, e si dirà semplicemente che i tassi resteranno bassi. Dunque un quadro molto interessante, secondo me non cambierà il quadro di fondo, perché essendoci 6 mesi davanti a noi di relativa stabilità, questo si tradurrà in che cosa? Beh, dollaro debole, euro si rafforzerà ancora di più, l'oro continuerà a salire, solo ieri è aumentato di 20 dollari all'oncia, e naturalmente il prezzo del petrolio, beh, nonostante Bernanke ritenga che presto rientrerà, temo che continuerà a salire anche lui, perché il dollaro si indebolirà. Bene, dunque questo è il quadro un po' macroeconomico. Adesso abbiamo ai microfoni di America 24 Daniela Roveda, che ha seguito la conferenza stampa di Ben Bernanke. Buongiorno Daniela. Buongiorno Mario. Allora Daniela, un Bernanke direi così molto moderato, ma anche abbastanza sicuro di sé. Ecco, raccontaci un po' che impressione ti ha fatto. Secondo me è stato un debutto molto positivo, ha riscosso direi un grande successo e ha posto i presupposti per una politica monetaria più trasparente, e questo era in fondo il suo obiettivo, direi realizzato pienamente. Ecco, qual è secondo te il messaggio più forte? Perché diciamocelo però Daniela, la verità è che la Federal Reserve ha pompato migliaia di miliardi di dollari nell'economia, eppure oggi avremo fra poco un dato che ci dirà che l'economia americana per il primo trimestre crescerà al di sotto delle aspettative, non il 2,8%, forse il 2,1%. È un problema? Beh, certo, il problema c'è, e Bernanke credo che sia stato molto chiaro nello spiegare che la politica monetaria ha dei limiti. Ha espresso molto chiaramente che non ha effetto sulla disoccupazione di lungo periodo, e questo è il grave pericolo che corre l'America in questo momento. Un tasso di disoccupazione caparbiamente alto potrebbe avere degli effetti molto negativi sulla crescita. In generale, Bernanke mi è sembrato complessivamente ottimista sul futuro della crescita americana e sul miglioramento del mercato del lavoro. Altra notizia importante in arrivo da Washington, un avvicendamento al Pentagono e alla CIA. Bob Gates, repubblicano doc ma fedelissimo a Obama, aveva annunciato che se ne sarebbe andato. C'è un'accelerazione però in questa sua uscita, perché è stato scelto Leon Panetta, ufficialmente sarà confermato fra poco, come suo sostituto. Leon Panetta, ricordiamolo, il capo della CIA, un democratico doc, lavorò nell'amministrazione Clinton. Tra l'altro il secondo italo-americano a diventare segretario al Pentagono. Il primo fu Carlucci. Altra notizia è che al posto di Leon Panetta alla CIA andrà David Petraeus. David Petraeus, il comandante delle forze armate in Afghanistan, era stato il comandante delle forze armate in Iraq, dunque generale espertissimo, uomo di grande cultura. Pensate, ha un dottorato in politica internazionale alla Woodrow Wilson School di Princeton University, che è una delle università più prestigiose in America. Allora, cosa c'è dietro questa accelerazione? Beh, non vorrei mettere il carro davanti ai buoi, ma secondo me l'amministrazione vuole premere l'acceleratore sulla Libia, vuole togliersi questo problema. Potrebbe esserci la necessità di interventi più diretti, forse anche di un intervento non solo di consiglieri ma magari di militari. Bob Gates era contrario, Obama non poteva permettersi di rischiare le dimissioni di Gates, non poteva avere le mani legate, dunque secondo me questa accelerazione avviene soprattutto per sbloccare la situazione libica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Gli Smashing Pumpkins hanno raggiunto un accordo con la casa discografica EMI per ripubblicare tutti i loro album. La band di Chicago ha annunciato che questi dischi conterranno anche materiale inedito, un accordo economico importante degli Smashing Pumpkins. Sentiamo Bullet with Butterfly Wings. Spider-Man,